veramente bella trasmissione. Vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ho capito perché Pardo non si sente mai, l'ho appena visto in autogrill a Fiorenzuola, aveva appena ordinato una pizza gigante, scrive Lorenzo. Sì, l'ho divisa. Abbiamo le spie, eh? Sì, abbiamo. Attento! Abbiamo le spie, tu hai capito che la mia vita ormai è, capito? Cioè, grande fratello. Sì. Però capito, saluto Lorenzo, che sia stato anche uno, qua l'ho fatto un selfie. La pizza non era così enorme, l'ho facevata con mia moglie, quindi tutto, quindi tutto normale. Sì, tutto ma vuoi aggiungere qualcosa? Com'era la pizza? Che buona, ne so, com'era? Come? Aspetta, dillo, Radio 24, non posso essere ecco. Si è sentito nulla, normali tradizioni. Era buona, dice che era molto buona, buona. Era buona. Molto bene, a Fiorenzuola. Intanto, notizie di cronaca, Landa si ritira dal Giro d'Italia, era uno dei grandi favoriti, uno degli uomini che facevano paura, Anibali, oggi problemi fisici, si è ritirato. Altra notizia, il Leicester telefona alla Padula che dice: sempre amato la Premier League, quella sarà la sua prossima destinazione per essere allenato da quel mito di Ranieri. Questo per la cronaca. Intanto ovunque escono i nomi dei convocati per l'europeo, ovunque salvo che in Italia, dove abbiamo il listone, un listone che provoca polemiche, perché la Juventus dice: ma no, Bonucci, ragazzi, ma Conte, ma cos'hai bisogno di capire da Bonucci? Facci giocare alla finale di Coppa Italia, poi te lo diamo. Bonucci è squalificato, benissimo, dobbiamo allenarci con lui, Bonucci è un nostro giocatore, ce lo teniamo, non ve lo diamo. Sentiamo Tavecchio. Io non ho mai avuto dubbi sulla sua onestà e moralità, i fatti ci hanno dato ragione. Era molto emozionato, siamo stati emozionati in due, perché questa situazione io l'ho conosciuta passo passo con lui. E non ci sono rose ristrette o allargate, noi diremmo, faremo un'area tecnica e metteremo in condizione una persona di occuparsi di tutta la parte sia delle nazionali minori che della maggiore, ma ci sarà un allenatore della nazionale con le responsabilità autonome. Questo era Tavecchio, ovviamente, sulla soluzione di Conte e poi sull'altro problema, Bonucci non prestato alla nazionale per questo maxi raduno che di tre giorni, la Juventus dice dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia, anche in allenamento Bonucci ci serve. Chiedo a te Pierluigi, agli ascoltatori 800 24 00 24, dove sta la parte della ragione? Secondo me ha ragione la Juve, nel senso che comunque è una finale di Coppa, che Bonucci serve in allenamento mi pare non ci siano dubbi, dal punto di vista tecnico non ci sono proprio dubbi. La Juve, ma questo è soltanto un dettaglio, contribuisce in maniera molto significativa alla composizione della rosa della nazionale, quindi da questo punto di vista, per carità, lo fa perché è il giocatore forti, non è che lo fa perché è la Caritas, però certo. Voglio dire, comunque appunto contribuisce, e sappiamo che contribuire significa anche prendere dei rischi, perché qualche volta i giocatori si fanno male in nazionale, in Italia così come all'estero, quindi insomma, non credo possa essere accusata di avere un atteggiamento tirato o tirchio nei confronti della nazionale. Che Bonucci possa essere una figura fondamentale di ispirazione all'interno dello spogliatoio in questi giorni a livello di esercitazioni e allenamento ci sta. E quindi secondo me un fondo di verità c'è, e quindi propendo per dare ragione alla Juve. Comunque, convocati Marchetti, portieri Marchetti, Mirante, sì. Sportiello, difensori Acerbi, Astori, Bonucci per l'appunto che non andrà, Izzo, Ogbonna, Tonelli, centrocampisti Benassi, Bernardeschi, Candreva, Cataldi, De Rossi, e questo è piuttosto importante perché De Rossi era da tempo fuori dal giro della nazionale, fuori dalle idee di Conte probabilmente, ma sono stati infortuni pesanti a condizionare questo pre-europeo. De Rossi è anche tornato, eh? Ci sono due elementi secondo me, due concause che secondo me si dicono De Rossi al ritorno in nazionale. La prima e la più importante è la quantità purtroppo industriale di infortuni in quel ruolo, sì, che ci sono stati, quindi Marchisio, ovviamente Verratti, e quindi là è ovvio che le quotazioni di Jorginho e di De Rossi sono salite in maniera significativa, significativa. E poi De Rossi è tornato, De Rossi lo sappiamo, è un giocatore che per fare la differenza ha bisogno di una perfetta efficienza fisica. Gli alti e bassi di De Rossi in questi ultimi anni sono dovuti proprio alle caratteristiche del suo ruolo. È un giocatore che quando sta bene fisicamente è per me è sempre un titolare della nazionale, perché è un giocatore che c'è esperienza, al carisma, carisma, personalità, insomma, all'abitudine a certe partite, certamente. Assolutamente. Sì. Quindi, poi chiaramente è un giocatore che quando scala un po' di condizione, avendo le piedi buoni ma non eccezionali, come avendo anche cambiato il suo ruolo in questi ultimi anni, perché è diventato anche più interditore, è chiaro che è un giocatore che fatica. Però oggi secondo me è un favorito per essere tra i 23 e francamente io penso che Conte lo porterà e io che non conto niente lo porterei. Ecco. Comunque gli altri sono sempre a centrocampo: De Silvestri, El Shaarawy, Florenzi, Giaccherini, Jorginho, Parolo, Soriano, Zappacosta. Attaccanti: Borini, Eder, Immobile, Insigne, Pavoletti e Pellè. Questi i 31 preconvocati per questo stage di pavoloso, Conte. Pavoloso. Pavoloso servirebbe? Beh, c'era Immobile, Pavoloso beh, sta fatta una grande stagione e arriva anche caldo e carico. Ieri avevamo ospite fra gli altri a Tichità che è uscito Immobile, che insomma era 3 metri sopra il cielo, giustamente perché mi ha confidato che non sapeva della chiamata, insomma l'ha saputo ieri pomeriggio, non aveva avuto nessuna telefonata, nessuno spiffero, ci sperava ovviamente, quindi insomma diciamo che è arrivato in trasmissione felice e sereno invece che depresso. Immobile ha le caratteristiche secondo me poter essere un giocatore nazionale, della penuria di attaccanti top rispetto a 10 anni fa. È un giocatore che quando sta bene secondo me può fare addirittura il titolare di questa nazionale. Bisognerà capire ovviamente il recupero dall'infortunio, perché lui si è fatto male nel derby contro la Juve, sono fuori un mesetto, è tornato 2-3 partite fa, insomma è chiaro che deve un pochino riprendere il ritmo partita. Però sai, gli infortuni possono anche essere un vantaggio paradossalmente. Certo, in una stagione lunga, sì. Aver saltato dei pezzi di stagione ti può portare ad arrivare più fresco all'appuntamento con l'Europeo. Allora, ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24. Ovviamente, come avevo previsto, il pueblo si divide tra contiani e juventiniani. Perché Bonucci non è andato con la nazionale essendo squalificato, perché Conte ha insistito per chiamarlo, chiamateci e ne parliamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Adesso è 50-20, ma c'è stato il cambio di Iaiolo, quindi forse finisce a 50-50. Lazar, no, 50-20, basta così. Il Palermo rimane in Serie A. E il Carpi, la terza retrocessa dopo Verona e Frosinone. Esplode Renzo Barbera, travolto Ballardini. Tutti in campo ad abbracciarsi. La festa del Barbera. Questa è la festa del Palermo. Pierluigi Pardo, abbiamo Davide Ballardini collegato. Come con va, mister? Come va? Benissimo. Benissimo. Come si sta? Ora, si sta? Come ora benissimo. Si sta? Come i pischelli, i ragazzi dopo gli esami. Io ti ricordo il giorno dopo l'esame all'università, quando hai preso un bel voto. Come si sta? Con una felicità addosso, un senso di vacanza? Beh, io com'è? Un bel voto non l'ho mai preso, quindi quella è un'emozione che non ho mai provato, però adesso, dopo così, una favola, perché questa è una favola umana e tecnica, si è svuotati di tutto, ma si è contenti. Beh, mister, record del mondo, salvezza ottenuta a 18 mani più o meno. Beh, salvezza ottenuta... Nelle ultime 6 partite il Palermo per salvarsi ha fatto 11 punti, sì. Quindi mi sa che sia una cosa insomma abbastanza grossa, perché poi c'è da dire che il Carpi ne ha fatti 10, quindi poi per tutto quello che è successo, ma è una salvezza, insomma, la squadra si è proprio guadagnata questa salvezza che è insperata. Ma mister, qual è la differenza tra il Ballardini 1 e il Ballardini 2? Nel senso che nella prima parte, al di là del fatto che poi in questo caso nulla più del campo e del risultato del campo dimostra che vi siete chiariti, che vi siete riappacificati, che è tutto a posto, perché altrimenti non avreste ottenuto questo risultato. Però insomma, nella prima parte non sono mancati nervosismi, polemiche, incomprensioni. Nella seconda parte invece la squadra è rifiorita. Lei che spiegazione dà di questa differenza? Ma l'hai data tu. Nella prima parte ci sono state delle incomprensioni, c'erano delle frizioni, io adesso non ti so dire, perché quando uno entra stagione iniziata, arriva e cerca di fare del suo meglio, ma non capisce bene tutte le dinamiche. E quindi, però sottolineo, noi abbiamo fatto 7 partite, 4 fuori, 3 in casa, e abbiamo fatto 7 punti, quindi non è come punti, non abbiamo non fatto neanche, certo. Direi proprio di no, considerando poi i precedenti. E poi una volta ritornati tutto questo si è definitivamente chiarito, quindi una volta chiarito tutto, dopo tutti hanno corso in una direzione, ma corso forte, con un'attenzione, una serietà e una generosità fuori dal comune. Quindi io ho 50 anni, dico che ho 50 anni, ne ho anche qualcuno in più, però io faccio fatica a cambiare in un mese. Sono cambiate sono le condizioni. Esatto. E Zamparini cambierà mai? Cioè questa esperienza no, anche qui? Perché è surreale. Zamparini è surreale, cambierà perché si avanza con l'età, quindi saremo tutti peggiori. Saremo tutti peggiori, non è male. Certo. Però possiamo dire che non è stato il massimo della gestione sportiva questa stagione, perché comunque cambiare 9 allenatori è stata una cosa surreale, mister. Certo, ma Zamparini, per quel poco che io lo conosco, ma poi non so, probabilmente l'hanno detto anche tanti altri, è il primo tifoso del Palermo, perché davvero lui sta male, ma sta proprio male quando le cose non vanno bene, e purtroppo ogni tanto è anche il primo avversario, ma non lo vuole essere, perché non vuole essere il primo avversario del Palermo, anzi lui vuole essere quello che dà una mano, ma succede che magari in certe situazioni gli capita di non essere d'aiuto, quindi però il presidente è così e ce lo prendiamo con i suoi pregi, i suoi difetti. Adesso servirebbe un po' di tranquillità e stabilità, no Pardo? Sì, no, volevo chiedere, quindi sbaglia per troppo amore? Direi proprio di sì, per la passione che ha e per ci tiene talmente tanto. Non so, probabilmente è capitato a tutti noi che quando vuoi bene a una ragazza fai tanto, tanto, tanto, e tutto quel tanto che fai spesso non va bene. Ecco, e mi pare, lui è un eterno innamorato della squadra, e per troppo amore a volte fa degli errori. Sì, c'è chi dice che sia anche un po' rincoglionito, ma questo non lo dico io, Un sacco di ascoltatori Gnocchi l'ha scritta, ma anche Gnocchi l'ha scritta. Io sono qua, gliela consiglio. Si è salvato perché ha cambiato allenatore, si è salvato. Ho una visione qui davanti a me, ho Fabrizio Miccoli qui di fronte a me, che è un ragazzo al quale voglio bene. Fabrizio, vieni qua. Fabrizio, ci sono delle persone che ti vogliono salutare. Un momento attimo, momento Carramba, dove siete? A Palermo? Dove siete? A Palermo? Sì. Carrambata. Pronto. Fabrizio Pronto. Miccoli, Carlo Radio Genta, 24, Pierluigi Pardo, Radio 24, Sole 24 Ore. Come ciao. Va? Che fai? Sì, Lecce, ciao. Dici Foggia Lecce, come finirà? Mi sembra, partiamo dalle cose serie. Ah beh, lo sai, io sono il tifoso del Lecce, quindi spero che vinca il Lecce. Però secondo me chi vince delle due va in B poi. Ah, sì, la sfida tra le due più grosse. Sì, come l'hai vista questa salvezza del Palermo? Che idea ti sei fatto? Tu che conosci benissimo Zamparini e l'ambiente, ovviamente. Ma io sono contento solo per il mister, sinceramente, e per la città, per i tifosi di Palermo, perché ha fatto, secondo me ha fatto un miracolo quest'anno. Mm-hmm. E quindi se lo merita lui e la gente. Sì, non Zamparini. Io non ho detto questo, non mi voglio parlare. Ah, tu hai detto per il mister, no, per la gente. No, io ti dico la verità, io non sono contento per Zamparini, non essendo tifoso del Palermo. Secondo me Zamparini ha fatto una montagna di fesserie quest'anno, perché allora, loro allenatori sono una pazzia. Non voglio parlare no, ma lo dico, lo sto dicendo io, che, Fabrizio. Nel senso che io sono solo contento per il Palermo, certo, perché amo questa città e questa maglia, quindi sono contento per i tifosi e per il mister, che ha fatto per me un grandissimo lavoro, quindi questo è quello che penso. Poi del resto, certo, non mi va di parlare. Non ho mai parlato da quando sono andato via e mai parlerò di questo. Senta il poliziotto cattivo, io sono il poliziotto buono. La temperatura com'è? 30 gradi, come stai? È bello, c'è il sole. Tu sei a Mondello? Sono a Mondello, sì. Mamma, e poi domani mia, ritorno a Lecce. Senti, ma la pasta con i ricci l'avete già mangiata o è questione di minuti? No, io l'ho mangiata ieri sera. Continuiamo così, facciamoci del male. Non a Palermo, l'ho mangiata ieri sera con Sterze. Senti, quindi, Fabrizio, un'altra cosa mi scappa di chiederti, ma il record di Higuain cioè abbiamo parlato ieri per un sacco di tempo, è quello di Higuain, è quello di Nordan, è più forte Higuain, più forte Suarez. Secondo me quel numero di gol nel campionato di Serie A, che tu conosci benissimo, è un qualcosa di mostruoso. Ha fatto appunto la storia, quindi chapeau, tanto di cappello. Secondo me se non veniva espulso con l'Udinese, saltava anche quelle 3-4 partite che ha saltato con squadre mediocri, secondo me poteva arrivare anche a 40 quest'anno. Sì. Quindi ha fatto veramente un grande campionato. Mi dispiace per il Napoli, perché quest'anno c'è stato un periodo che ci credevo anche. Anche noi. Poi Pardo l'aveva pronosticato. Poi dopo mai tanti anni se lo meritano anche, stanno lavorando bene, secondo me hanno un grandissimo allenatore e quindi possono in futuro cercare di puntare allo scudetto, Napoli, Roma, ma anche per rompere un po' la monotonia della Juve, perché ormai basta, dai. Se no sai che palle. Ma Vasquez, mi rispondete tutti e due su Vasquez, qual è la dimensione definitiva di questo giocatore? Allora, è da grandissimo club, in che cosa può ancora migliorare? Miccoli e poi Vallardini. Io penso che il mister possa rispondere meglio di me, io ha giocato con me tanti anni fa, quindi sicuramente... E adesso sarà migliorato tantissimo, l'ha dimostrato, quindi penso che sia arrivato anche il momento. Ieri si spiega male, eh? Ieri c'è, è rifuso. Infatti. Te l'aspettavi? Ma tanti. Questo vuol dire che magari tante volte bisogna dare anche un pochettino di tempo in più, secondo me. Però quello che penso io è che adesso magari Franco sicuramente può andare in una squadra più, in una big, diciamo, perché l'ha dimostrato, se lo merita. Poi il mister, allenandolo, sicuramente può rispondere meglio. Glielo chiedi tu, per favore, glielo puoi chiedere. Franco per il ragazzo che è proprio la pulizia, un ragazzo bello, pulito, elegante, le ha tutte, lo vedo nel vecchio stile Milan. Per me Franco dovrebbe andare al Milan, ma il Milan che abbiamo ammirato per tanti anni, non diciamo così il Milan di questo ultimo periodo, perché è un ragazzo serio, un talento straordinario, e quindi lo vedrei bene in una società così. In una foto ormai in giallita. È il giocatore che ha tentato e che è riuscito a fare più dribbling in tutto il campionato, quindi ha questa caratteristica dell'uno contro uno, secondo che ormai me è rarissima, ormai rarissima. Magari non lo so, io ho la sensazione che forse debba incanalare meglio il suo talento, che è enorme, cioè che abbia ancora dei margini di crescita per diventare un giocatore ancora più decisivo, però sicuramente il potenziale è tanto, Sì. D'accordo. Grazie mister. Grazie mister, grazie Fabrizio, buone vacanze, ciao, a Miccoli ragazzi, per la carrambata. Pardo invece tu stai lì, ci sono già Pietro, Daniele, Gianni, altri ascoltatori all'800 24 00 24. Come? Dopo la pizza? A che pizza l'hai dato? No, sveglia, saluta con la mano. Saluta con la mano. Ciao, saluto, niente. Sì. Niente. la pizza con i peperoni e, vabbè, e salame borse, piccante. Borse, sei, ci sono le borse? Sei il solito ingordo. Lo sai che ci sono le borse, sì. Certo. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Tutti convocati. Pardo, stiamo aspettando un grande ospite che è in arrivo. Intanto Piero è un ascoltatore. Ciao. Ciao. Ciao, complimenti per la trasmissione, grazie per l'opportunità. Ma grazie. Velocemente sulla nazionale. Io ho 58 anni. Una volta la nazionale era di tutti, al bar tutti insieme a vedere la partita, eccetera. E i convocati spesso erano quelli che voleva la gente. Ricordo che in un mondiale giocava un tempo Mazzolo, un tempo giocava sì, Rivera. Grandi referendum popolari, sì, sì, Piero. Grandi sì. Referendum. Oggi abbiamo una squadra dove il gioco non c'è, i gol non ci sono, personalità non c'è, simpatia non c'è, soprattutto da parte dell'allenatore. A fine campionato noi lasciamo a casa il grande vecchio Totti, che è il giocatore più di classe che c'è forse al mondo in questo momento, uno dei più grandi in assoluto, e io l'avrei portato. Bene, e lasciamo a casa Donnarumma. Cos'è? Non va bene uno perché vecchio, non va bene l'altro perché giovane. Su Donnarumma possiamo fare allora Piero, possiamo fare un discorso diverso che condivido con il mio fratello di banco Pierluigi Pardo. Su Donnarumma è un discorso diverso perché va bene fare esperienza, mandare l'Europeo come terzo, lascia il tempo che trova, il futuro niente, bravo, non serve a niente, parliamoci chiaro. Quanto a Totti, è chiaro che ha un discorso molto romantico, molto sui generis, molto sopra le righe, era un discorso impossibile conoscendo Conte, però io all'Europeo l'avrei visto volentieri, punto. Sì, è anche vero che detto per noi non è che gli farà lo stage a Totti. Non è che devi fare lo stage a Totti, ecco, questo è evidente. Che vuol dire? Che ci sta pensando? Io non credo. Ma non lo porta, no. Non lo porta e non lo porta per un discorso anche di rispetto della squadra che ha fatto questi due anni. È chiaro che è una suggestione. Io credo che un giocatore come lui, paradossalmente un po', il discorso facevo per Balotelli in maniera diversa. Appena Balotelli aveva dato qualche sprazzo, poi di subito gli stracci, e dicevo che forse una soluzione di questo tipo poteva essere più utile alla nazionale per una competizione breve piuttosto che come continuità per la prossima stagione. È in qualche modo un po' lo stesso discorso che facciamo per Totti, certo, nel senso che Totti in questo momento sta da Dio, certo. Ma gli europei si giocano adesso è una soluzione, mentre tra un anno non sappiamo come starà. Sai. Premesso che Totti sta riscrivendo le leggi della fisica, sì, però sai Pierluigi, in tante nazionali, in diverse nazionali abbiamo visto il giocatore tattico, magari non nel calcio, nella pallacanestro di sicuro. Io ad esempio mi ricordo che nel basket, quando siamo diventati campioni d'Europa per la prima volta, uno degli aghi della bilancia fu il fatto di portare Charlie Cagliaris come terzo playmaker insieme a Marzorati e Brunamonti. Non lo dico a caso perché abbiamo in linea un grandissimo del basket attuale come Gigi D'Atome. Ciao Gigi. un attimo che è cascato. È cascato da Tome. Cascata la linea. L'hanno tagliato fuori. E hanno fatto taglia fuori. Avevo fatto tutta sta bella premessa. L'hai vista l'altra sera? Sì, ho anche un po' sofferto perché facevo il tifo per Datome e per il più grande coach europeo, Zele Obradovic. Però così è andata. Il Cesca si è portato a casa la Coppa dei Campioni. Dopo un supplementare, Gianni da Palermo, buongiorno, in attesa di Datome. Salve, chiamo da Siracusa, anche se sono palermitano. Da Siracusa va benissimo. Ma allora, Siracusa come è messo? Cosa ha fatto? Retrocesso, promosso? Perché... No, è stato promosso, mi sembra, in Lega Pro. È stato promosso, le sembra, in Lega Pro. Va sì, bene, non lo seguo tanto. Allora, volevo due questioni, se me le fate finire. Cercherò di essere breve. Allora, Orrico ha detto che il Palermo tutto meritava tranne che la salvezza. Sì. Ora, io non ho queste dichiarazioni, non so come. Il Carpi, allora, premesso che il Palermo ha finito davanti all'Udinese in classifica, il Carpi nelle ultime sei, tre vittorie, le uniche tre vittorie, le ha fatte giocando in 11 contro 10, quasi tutta la partita, compresa l'ultima con l'Udinese. Perché l'arbitro Mazzoleni, mi sembra, ha tirato fuori il cartellino rosso, cioè uno che non vuole incidere in una partita. Sì, il Carpi ha anche perso la partita con la Lazio sbagliando due rigori, se vogliamo dirla così. Allora, ma il Palermo, per così dire, il campo conta, per me il Palermo merita la salvezza. Poi che la gestione del Carpi sia stata nettamente più oculata di quella di Zamparini, io penso che siamo d'accordo tutti. Ogni gestione è stata più oculata rispetto a quelli di Zamparini. Mi fai salutare Gigi da Tome, Gigi, Piera. Adesso dovrebbe. Gigi, ciao! Ciao a tutti! Come stai? Molto bene, voi? Beh, sei già al ristorante? A Parno insiste sul ristorante. Sei già all'isola, Gigi? Magari, no, ancora devo aspettare un po'. Vabbè, andiamo presto, eh. Andiamo presto. Come va? Nella vita di un grande sportivo, quell'insieme di emozioni e anche di delusione alla fine, come si metabolizzano 48 ore dopo, 72 ore dopo? Cioè, se ne ricava una sintesi? La sintesi l'hai fatta tu, mi hai twittato, grande rosicata, perché ha fatto una grande stagione, si è andato in finale a giocarsela con Stesca, che ha fatto una gran partita, stava meritando, poi abbiamo fatto una gran rimonta e abbiamo avuto la vittoria in mano e poi c'è sfuggita. Quindi poi se si va nel tecnico se ne sta a parlare per due ore. Però felice di aver avuto la possibilità con la squadra di essercela giocata e spero che nel prossimo anno saremo sempre a questi livelli per riprovarci. Posso dire, Gigi, che tu hai fatto una grande scelta, quella di andare a giocare per un club emergente allenato dal più bravo allenatore che c'è in Europa. L'altro ieri abbiamo avuto Marco Beninelli a questi microfoni, domani dovrebbe esserci Danilo Gallinari. Io su Gallinari ho detto in tempi non sospetti avrebbe avuto bisogno di un paio di stagioni da Eurolega con un coach come Obradovic. La domanda qual è? La domanda è che vuol dire d'accordo? essere allenato da un santone come Obradovic puntando all'Eurolega. No, è stato molto gratificante solo il fatto che mi abbia chiesto di andare a giocare per lui e adesso che è quasi una stagione che mi allena, dire che veramente è un clinic di pallacanestro quotidiano. È difficile essere allenato con lui perché pretende il massimo e sei perennemente sotto pressione, ma è molto motivante allo stesso tempo. Infatti credo che se uno lo ascolta e mette a sua disposizione totale, penso che può solo che migliorare. Infatti sono molto felice della mia scelta, sono felice di quello che sto facendo, di quello che stiamo facendo. Adesso domani cominciamo i playoff del campionato turco, però per adesso sono veramente strafelice della mia scelta e molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto fino adesso. Ha imparato di più di Pierluigi. Il turco l'ha imparato, ma soprattutto com'è la dimensione lì? Veramente io sono rimasto colpito, insomma, dalla macchia giallo-blu, non avevo dubbi, ovviamente, a Berlino. E mi sembra che insomma siamo sul livello del calcio, cioè forse anche la saldatura che esiste fra il club calcistico e il club di pallacanestro fa sì che il livello di passione non abbia niente da invidiare. Da questo punto di vista l'Italia è lontana o no? Sì, penso come in tutte le polisportive, come Barcellona, Real Madrid, anche noi ovviamente se prendiamo il seguito del calcio, non è a quei livelli, però adesso che è stata comunque una stagione esaltante, per dirti, quando siamo in playoff con Real Madrid, cioè tutto esaurito e l'attenzione era molto più su di noi che sul calcio, che si stava giocando il titolo, ma era a troppi punti di distanza dal Beşiktaş, che poi ha vinto. Quindi sì, cioè, poi il Fenerbahçe conta tantissimi tifosi in tutta la Turchia e anche in tutte le comunità turche che ci sono nel mondo. Vedi a Berlino, che è piena di turchi mandati lì nel dopoguerra e appunto hanno riempito il palazzo a Berlino. Quindi è una realtà molto molto grande ed è bello farne parte, ovviamente, quando c'è un seguito così grande, un'atmosfera così grande ovunque vai, è molto bello farne parte. Gigi, per finire, in chiave azzurra, quanto è importante Ettore Messina nell'avventura che vi aspetta? C'è un'Olimpiade da prendere, c'è una nazionale che ormai, diciamo da anni, dal punto di vista del talento, è forse la più forte che abbiamo mai visto. L'anno scorso un europeo che per la prima parte ci ha fatto sognare e poi ci ha deluso. E adesso c'è l'allenatore più bravo che si poteva prendere. Quanta pressione avete e... insomma, cosa può succedere in questo preolimpico? C'è solo da guadagnare l'accesso a Rio, no? Sì, nel senso, no, c'è da guadagnare, non c'è solo da guadagnare. Beh, quello è il nostro obiettivo. Messina, quello che ha detto quando è stato presentato, è che spera di poterci dare un'ulteriore mano per raggiungere questo obiettivo. L'Europeo dell'anno scorso, come la nostra competizione, per esempio qualche giorno fa l'Eurolega, è stata decisa lo stesso da mezzo canestro. Per mezzo canestro potevamo non passare il primo turno, per mezzo canestro non siamo andati in semifinale. A questi livelli purtroppo funziona così. Spero che dopo tutti questi dettagli a sfavore prima o poi ci girano anche un po', certo, un po' a favore. Ma quanto è importante che ci sia Ettore, Gigi? È importante nel senso, noi siamo i giocatori che dobbiamo fare in campo, fare canestro e difendere. Però lui, come ha detto molto umilmente, spera, nonostante sia appunto uno dei più grandi allenatori per quanto ha vinto in Europa, adesso è assistente di Santos Spurs, vuole darci una mano, è a nostra disposizione per aiutarci a raggiungere questo traguardo, e noi vogliamo ovviamente farlo, ovviamente seguirlo, e spero che sarà importante. Vorrà dire che ci avrà dato una mano e vorrà dire che saremo tutti contenti, noi giocatori, tifosi, movimento e anche lui come allenatore. E io e Pardo pure, perché prenotiamo il biglietto per Rio. Pardo? Io, guarda, sono prontissimo. Ma poi, guarda, l'anno scorso, anche se poi non è andata come speravamo, la nazionale di basket ha fatto un miracolo. Di coesione, cioè c'è stato un entusiasmo, una passione, un interesse attorno alle partite enormi. Insomma, la prima pagina dei giornali meritate, tu sai quanto io tengo al basket, eccetera, eccetera. È stata una grande mezza festa. Adesso, vabbè, è lo sport più adesso... bello del mondo, questo lo sappiamo. Tanti calciofili non ci stanno sentendo. Tira che è finito, quindi io non ho problemi a dirlo, tanto lo penso davvero. Io lo penso come gioco, penso che sia il gioco più divertente dal mio gusto di. Punto di vista personale, poi è ovvio che il calcio è qualcosa di quasi di religioso, e quindi è in tutti i paesi del mondo, ogni minuscola comunità al suo campo di calcio, ai pali, ai giacchetti. È uno sport semplice, uno sport tante volte anche ingiusto, con dei meccanismi dove non sempre il migliore vince della partita secca. Quindi è molto un gioco oltre che uno sport, e quindi questo lo rende irresistibile. Però partite di basket noiose non esistono mai, questa è la mia idea. Ma comunque anche in una partita di basket, anche se non c'è finisce, comunque vedi i gesti tecnici, mentre nel calcio si possono capitare anche delle partite bruttine. Sì, questo è vero. Gigi, ti saluto, grazie. Ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi l'invito, buon pomeriggio. Vado a prenotare. Vai a prenotare per Rio. Io parlavo al ristorante. Pensavo al ristorante. Ah, pensavi al ristorante all'isola? Sì. Aspetta un attimo. Località Santa Severa, andremo presto, dai. Aspetta un attimo che finisce il campionato turco. Ciao Gigi, grazie. Grazie, ciao. Ciao, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Una da Gallinari, per un attimo chiuso da raddoppio, Prelzic ora su di lui, Erden pensa ad andare, poi torna indietro, da Tome fino in fondo, grande Gigi da Tome, super Gigi, super pazzesco, Gigi, super pazzesco. Gigi. Palla nell'angolo per Datome, arriva il ritmo. Splash! Gigi Datome! Hackett, ora Datome, palleggio, arresto, triple! Oh! Gigi! He has five boards and there goes way up to Gigi Datome and a goaltend's going to be called on Mahimi. So Luigi gets his first hoop as a Piston. Questo era l'omaggio che avevamo preparato per Gigi Datome che abbiamo ora sentito grazie a Giorgio Drugo, nostro dottore, a Gianmarco Ferronati in regia. Schegge di sport che sono sempre emozionanti da morire, grandissima libidine. Marco, buongiorno. Buongiorno da un ristorante della meravigliosa Siracusa. Ecco, ci siamo. E si mangia bene. Pardo. Sì, ragazzi. Qualcosa da domandare? Io, ragazzi, no, io sapete che per il Terrano è la mia patria. Tonno con i peperoni. No. Io sto mangiando spaghetti con le sarde. Spaghetti con le sarde. Moltissimo. Piacciono moltissimo questi pesci un po' proletari, eh? Spaghetti con le sarde. Pinoli e finocchietto. Pinoli e finocchietto. Ma anche a Beccafico? Le possiamo fare anche a Beccafico? E come? Vabbè, allora sbrigato. Molto bene. Allora, innanzitutto volevo fatemi fare i complimenti al Siracusa Calcio che è salito in Lega Pro. Sì. E speriamo che adesso la situazione societaria non comporti più delle strane retrocessioni, penalizzazioni, eccetera. Speriamo di no. Anche lì di trovare un po' di stabilità per quel poco che ne speriamo so. Di no. 6.000 spettatori a Siracusa, quindi meritano queste nessun dubbio. Allora, per Totti, caro Genta, perdonami, ma Totti in nazionale agli europei non si può sentire. E no. Ti spiego il motivo. Sì. Totti è un campione, ci mancherebbe altro. Totti merita di giocare sempre. Però io premierei chi ci ha portato agli europei, quindi il gruppo che ha vinto le qualificazioni. Con questo vi saluto e vi ascolto per radio. Grazie. Marco, questa è una corrente di pensiero assolutamente legittima. Che è quella di Conte ed è assolutamente legittima. Vado con chi mi ha portato fin lì. Poi, se devo dire, vado inventandomi qualcosa per provare a sparigliare le carte, allora, certo. Allora io Totti me lo porto. Che poi è esattamente la stessa situazione simmetrica del 2006. Nel senso che Lippi nel 2006 aspettò Totti dopo l'infortunio in nome proprio dello stesso principio che oggi esclude Totti dalla nazionale. Certo, Pierluigi. Cioè il fatto che ci deve essere una fedeltà a chi ti ha portato. Io credo che Lippi abbia fatto un gesto, al di là del fatto che poi funzionò, ma Lippi fece un gesto meraviglioso nei confronti del gruppo, non soltanto un gesto diciamo nobile, ma un gesto che ha anche funzionato, che fu vincente, perché Totti fu comunque uno dei leader di quella nazionale in certi momenti più importante, e averlo aspettato in nome di un senso del gruppo, della squadra, di un certo tipo contribuì a fortificare l'ambiente, lo spogliatoio, e quindi oggi simmetricamente 10 anni dopo è la stessa situazione al contrario. No, ma poi sai, tante volte ne abbiamo parlato con giocatori di questo tipo, non solo Totti, Del Piero, Baggio, lo portiamo, non lo portiamo. Praticamente sono 20 anni che prima di ogni mondiale europeo scatta il tormentone. Io dico, è chiaro che Totti non merita di andare all'europeo probabilmente per quello che ha fatto, per il poco che ha giocato, per il fatto che è fuori da questo gruppo per un sacco di tempo. Però, ripeto, se vai lì e ti giochi un torneo in cui conta anche il colpo di genio, conta anche il giocatore tattico, allora perché no, Roberto? Il ragionamento ci sta. Roberto? Pronto? Sì, dica. Sì, io non sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore di prima né con Pardo, perché non capisco perché si devono fare delle logiche, tra virgolette, politiche quando si pensa a una convocazione. Per me Totti, io sono juventino, non sono assolutamente romanista, ma è un genio e attualmente ha fatto vedere che in determinati momenti è Ma attenzione, però posso dire, lei ha usato la parola sbagliata, non politiche ma sportive. sportive. Sì, politiche, no, ho detto, no, fra virgolette, ho detto fra virgolette. Sportive, no, perché, no, perché, no, perché è un ragionamento sportivo dire vado con quelli che mi hanno portato fin qui e Totti non era in questo, sì, gruppo. E probabilmente Conte si sente anche garantito da quelli che ci sono. Cioè, è chiaro che adesso non si divide in questo momento nel ballottaggio tra Pavoletti e Pellè. Capisco che non si no. Non ti sento più. Vabbè, non ti sento più per Luigi, ma tanto abbiamo finito l'ora, ci sentiamo domani alle 14. Noi ci fermiamo invece per il GR e torniamo subito dopo. Ah, c'era Marino Bartoletti con le pagelle? Ah, state con noi, state con noi. 800 24 00 24. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Torniamo con Stefano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Tanto ricordo il numero verde, eh? Anzi, lo ricordi lei. Qual è il numero verde? 800 24 00 24. Bravissimo. Dica. Buongiorno. Io chiamavo per il Totti sì, Totti no, che però in realtà non riguarda solo Totti, riguarda un qualsiasi giocatore potenzialmente chiamabile da Conti. Sì. Se non ricordo male, visto che non sono più un ragazzino, ho 56 anni, nell'82 Berzot aspettò Paolo Rossi che rientrava dalla squalifica. Forse giocò un amichevole o due, ripeto, vado a memoria, sto guidando mentre vi chiamo. No, giocò i mondiali. Giocò un paio, anch'io vado a memoria, ma giocò un paio di partite di campionato nel finale di campionato con la Juventus. Lo portò ai mondiali, fece quello che fece, sappiamo tutti com'è finita. Quindi non capisco perché questo Totti sì, Totti no. Cioè, se Totti potesse far bene, io personalmente lo porterei. Tutto lì. Vi ascolto la radio. Sì, no, questa è una considerazione che vale esattamente come quella, anch'io sono di questa idea, ma è una considerazione che vale esattamente come quella di chi dice fuori da questo gruppo, tutto sommato è un giocatore che ha giocato poco, è un giocatore molto pesante anche dal punto di vista così emotivo, dal punto di vista carismatico, e quindi Conte preferisce andare con degli altri. Poi io dico, il mio sogno sarebbe quello di vedere Totti che finisce in questa stagione la sua carriera in maglia azzurra agli europei. Detto questo, poi ognuno ha la sua idea e se la tiene. Andrea, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Dica. Proporvi sì? Due riflessioni, domande circa il rinnovo di Montolivo. Volevo capire se voi trovate, diciamo, un senso al rinnovo, diciamo, anche. La sento peggio di Pardo nei giorni peggiori, dico la verità. Rinnovo di Montolivo. Qual è la domanda, Andrea? Non l'abbiamo capita. Rinnovo di Montolivo è stata una delle prime mosse di questo Milan, che ancora non si capisce dove deve andare, soprattutto sul versante societario. Poi quanto al Milan possiamo ripeterci all'infinito, io non cambio il mio pensiero. È chiaro che in questo momento non è una questione di chi sarà il nuovo allenatore, quali saranno i nuovi giocatori. Non è una questione di questo tipo, la questione vera e preliminare è di chi sarà la società, quali saranno le linee guida, quali saranno gli uomini che comanderanno, quale sarà la catena di comando del Milan. Una volta risolto questo interrogativo, poi possiamo parlare di tutti i Montolivi che volete e dei vari rinnovi contrattuali. Intanto, giusto per dire, oggi sono state così rese note le varie liste per gli europei. L'Italia è l'unica nazione che fa questo maxi raduno preliminare. Per quanto riguarda gli altri, ci sono liste più o meno ampie di convocati. Ad esempio la Germania 27, Gundogan resta a casa, 25 i preconvocati per la Spagna. E fa notizia, ad esempio, la esclusione di Diego Costa, ma anche di Mata e di Torres, per esempio, ed è stato disegnato un ruolo importante per Morata, che mi sembra sarà l'attaccante designato titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, a cui tra poco andremo, Vi ricordo che una delle grandi notizie di giornata è il clamoroso ritiro di uno dei grandi favoriti, cioè di Landa, che peraltro era andato molto bene nel cronometro, si era difeso molto bene nel cronometro di Chianti, del cronometro in terra toscana, che era uno dei terreni per lui più insidiosi, aspettava le grandi montagne, oggi non è stato bene, quindi si è ritirato. C'è il maestro Marino Bartoletti per le pagelle! Buongiorno, sono Pagelle che vi mando in diretta da Sestola e sentirete anche qualche rumorino di fondo. Più o meno casa tua, Marino Bartoletti, ovviamente al Giro d'Italia. Più o meno casa mia, sì, questa è la cortina degli emiliani, dai. Chissà quante volte hai fatto quella salita in bicicletta. Allora, io partirei, Marino, dalla Serie A dei record, perché mai come quest'anno ne abbiamo visti così tanti, da Buffon, da quello dell'imbattibilità di Buffon, a quello dei gol di Higuain. Secondo me la svolta probabilmente psicologica è stata quella, cioè capire a un certo punto che sarebbe stato da presuntuosi continuare a pensare a Inter, Napoli, Roma, ma la realtà diceva che noi dovevamo incominciare a pensare a Carpi, Frosinone, Atalanta, sporcarci le mani, andare fino a fondo, al fondo insomma di questo secchio diciamo di fango che avevamo, che c'era in quel momento. 36 gol in un solo anno, sei la storia e tutta Napoli è con te. Veramente una voglia immensa poter superare questo record, però soprattutto devo ringraziare a tutta la mia famiglia, a tutta Napoli, a tutto lo staff, a tutta la società. Mi sento orgoglioso di poterlo fare e adesso dobbiamo sfruttare che siamo nuovamente in Champions. Qui Marino, fatalmente i voti sono alti, c'è chi fa dotte disquisizioni sul fatto che Nord ha giocato più o meno partiti in epoche diverse 66 anni fa, eccetera eccetera, secondo me quello che ha fatto Higuain, ma anche quello che ha fatto Buffon battendo un record che resisteva da così tanti anni, siano state imprese assolute. Sì, guarda, sono due pepite meravigliose in una miniera di campionato. Io sento tre volte la mia voce, forse per colpa di Sesto. La prima stavo parlando con te, Carlo, e poi improvvisamente ho sentito Buffone, ho sentito Higuain, però mi sembra di aver capito vagamente che devo dare dei voti e delle pagelle. Sì. Se mi risparmiate, come si dice, il ritorno in cuffia, riesco a sentire voi invece che me, però è divertente parlare con l'eco. Ci proviamo, noi ti sentiamo bene. Adesso proviamo ad aggiustare le cose, noi ti sentiamo bene comunque. Allora, Carlo, il voto non può che essere altissimo. Siamo ai confini del 10, se ci fosse il 10 più per Buffon, perché anche è comunque, come dire, il leader morale del nostro movimento, quindi ci affidiamo a lui, la sua saggezza, alla sua bravura, alla sua eterna giovinezza che ha dimostrato ancora una volta, devo dire, alla faccia di anche tutti noi critici che ogni tanto abbiamo osato dubitare di lui e di parlare male di Garibaldi. Ci diamo le bacchettate sulle dita soltanto per averlo fatto qualche volta un po' di tempo fa. Higuain, anche lui 10, sarebbe 10 e lode se resta in Italia, però. Se fa questa scelta di vita, diciamo scelta di vita, va di moda questa. Buffon, possiamo aggiungere che potrebbe essere l'unico giocatore al mondo a aver fatto 6 mondiali. Insomma, adesso non andiamo troppo avanti coi lavori, facciamogli fare bene questo europeo. La squadra è affidata a lui, però vederlo anche successivo mondiale sarebbe una grande suggestione. Non c'è dubbio. Cambiamo argomento. La Ferrari in chiaroscuro e Marchionne che comincia a voler vedere dei conti precisi sul foglio degli arrivi. Marchionne. Beh, la doppietta doveva essere un'altra, quella vera. Oggi lasciatemi dire che c'è un pochino più di positività, nel senso che oggi voglio essere la Ferrari e non la Mercedes, con rispetto, ma quelli che sono fermati oggi sono loro, noi andiamo avanti. Dobbiamo migliorare di molto la vettura, perché adesso abbiamo due gare impegnative, Monte Carlo e poi il Canada. Zero piacere o gioia di vedere altre squadre incasinate, no? Però è un incidente attualmente non necessario, quindi se si poteva evitare, si doveva evitare, sarebbe stata una gara diversa e la Ferrari non sarebbe uscita così bene, quindi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Prima arriva bene, poi Marchionne, uno dei grandi temi del weekend. Marino, io darei un voto abbastanza basso alla Ferrari in questa corsa. Abbiamo sentito Crozza che imitava prima arriva bene e poi Marchionne, gli vengono molto bene tutti. Guarda, sì. Non sono all'altezza del maestro Leonardo. Sì. Però l'ultima persona con cui ho parlato prima che saltasse il campo e che per motivi assolutamente magici e misteriosi è nato in occasione di questo collegamento, seppur in maniera un po' precaria, si chiama Piero Ferrari. ed è il figlio di Enzo Ferrari. Ho scambiato qualche opinione su di lui, diciamo che lui la storia della Ferrari la conosce, conosce i momenti bui, conosce i momenti luminosi. L'ho trovato un pochino, non dico pessimista, però un pochino addolorato da quello che è accaduto nell'ultima gara, perché effettivamente il pensiero comune è: se non vinciamo quando si arrota tra di loro le Mercedes, vorrei sapere quando vinciamo. Però è anche vero che comunque la storia della Formula 1 impone la pazienza. Ricordiamoci che è passato un ventennio abbondante prima che l'ultimo titolo di Scheckter nel 1979 poi si arrivasse a Schumacher. Il gap si sta accorciando, probabilmente ci vuole un po' più fra la Ferrari e la Mercedes, probabilmente ci vuole un po' più tempo di quello che si pensi. 6 di fiducia, dai. 6 di fiducia, 6 di manica larga, maestro. Allora, cambiamo di nuovo. Che ho assunto te a Radio 24, ma io ho fatto bene però. Di manica larga anche lì. Cambiamo di nuovo argomento e sogniamo Rio. Cagnotto, donna d'oro. Sì, sì, si avvicina, sono contenta, così la finiamo. No, adesso sono contenta che arrivi, è giusto che arrivi, mi sono preparata altri 4 anni e... come sempre volano veramente, perché sembra ieri Londra 2012, quindi sono pronta e sono pronta anche a prenderla nel modo giusto. Londra 2012 sembrerà anche ieri o l'altro ieri, ma Berlino sembra praticamente domani. E ci arriviamo. Ieri, per la verità, quando le vidi prendere la prima medaglina di bronzo e correva l'anno 2005, questa ragazza ha preso 29 medaglie ai campionati europei, 10 medaglie ai campionati mondiali, 29-10 fra 39, curiosamente le mancherebbe una medaglietta olimpica che non solo merita, ma che farebbe anche cifra tonda, alle penultime Olimpiadi è arrivata quinta, alle ultime Olimpiadi è arrivata quarta, se non la merita lei quella medaglia, allarghiamo il campo, perché parliamo di lei e anche di Francesca Dallapè, dovremmo ritoccare l'inno, non più Fratelli d'Italia, ma anche Sorelle d'Italia. Ah. Un po' oscurata dalla sua maestà Pellegrini. 9 in attesa di aggiungere un punto dopo Rio, mi sembra perfetto. Veniamo da te al Giro d'Italia. Brambilla Carneade in maglia rosa che corona il suo sogno, cioè pedalare con il manto rosa nel plotone. Cambia un po' tutto, però io cerco di tenere i miei ritmi, di fare sempre le cose come sono abituato a fare, e questa è la strada giusta. Adesso inizia il vero giro, come ho già detto ieri, e da domani, io penso solo a domani intanto, ed è durissima, e poi si arriva a casa mia, si arriva ad Asolo, dunque spererei, vorrei tenere la rosa fino a casa. Beh, questo è bello, vorrebbe tenere la rosa fino a casa. Intanto io sto guardando la foto di Michael Landa che sale sull'ammiraglia della Sky. Allora, intanto casa sua è la Brianza, naturalmente, anche se è veneto di adozione il ragionier Brambilla. Fa ridere l'idea che la maglia rosa ce l'abbia il ragionier Brambilla. Aspettiamo il riscatto dei geometri, naturalmente. Questo ragazzo meraviglioso, è stato meraviglioso da dilettante, è stato meraviglioso da giovane professionista quando Bruno Reverberi lo ha pescato dal mazzo in una squadra che era allora ed è ancora, ora è diventata la Bardiani tutta italiana. Lo abbiamo adorato l'altro giorno sotto la pioggia e sotto la grandine di Greve in Chianti. Io spero veramente che mantenga questa maglia rosa, ma soprattutto che mantenga le promesse di una carriera che è luminosa, perché questo ragazzo è veramente un atleta meraviglioso e un uomo meraviglioso. E come cantavano i giganti in Mettete dei fiori nei vostri cannoni, Mecciami Brambilla e fu Luperari, se volete favorire. Senti, data questa, io ti devo girare una domanda che mi arriva via SMS. È una domanda sonora, questa. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not killed, not killed. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Men, who are they? I shall mother. Questa si chiama Jamala, rappresentante dell'Ucraina all'Eurofestival, e l'ha vinto con questa canzone che si intitola 1944, molto politicizzata, e la Russia ha immediatamente, non l'ha presa benissimo, ha chiesto la revisione della votazione. C'è Dario che vorrebbe sapere un parere di Marino Bartoletti sull'Eurofestival. È difficile questa. Detto che l'Italia all'Eurofestival l'ha vinto soltanto due volte, come sicuramente sapete, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e nel 1980 con Toto Cutugno, intanto beccatevi questa. Quando anche la politica entra nelle canzoni, quando anche certi argomenti entrano nella musica, vuol dire che siamo veramente pericolosamente fuori strada. Grazie Marino. Volete il voto? Sì. Beh, c'erano delle canzoni migliori, però la musica va sempre rispettata. E tutto quello che è successo dopo? Infatti è quello che abbassa il voto, purtroppo. È veramente una cosa molto dolorosa. Se vogliamo, e non abbiamo il tempo per farlo, dovremmo, come dire, parlare di scelte infrastrutturali, politiche, legate a soci, per cui la Russia voleva assolutamente vincere questo Eurofestival. Sono informazioni di prima mano perché il mio amico Paolo Belli era nella giuria di quel festival. Sì. Non è stato influenzato, però c'era un vento che spirava in maniera molto pericolosa. Se anche nei festival della musica entrano dei discorsi che non dovrebbero entrare né nello sport né in altre cose, come dire, pulite della vita, è come se non si volesse far vincere un corridore perché ha nel cuore, che ne so, un partito politico piuttosto che un altro, perché rappresenta una nazione piuttosto che un'altra. Lasciamole fuori dal recinto delle passioni queste cose. Grazie Marino, alla prossima. Un abbraccio, a presto. Un abbraccio. Ciao Marino Bartoletti. Giulio, buongiorno. Salve, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguarda Totti sì, Totti no. Ah. E grazie di essere convocato. Però io volevo ricordare che Totti è un campione, sì, però lui a suo tempo ha rifiutato di andare in nazionale, quindi fa bene Conte non chiamarlo, secondo me. Conte può far bene se Totti declina l'invito, se un invito gli è stato rivolto e lui lo ha declinato. Abbiamo assistito in passato a vari esempi di giocatori che, a mio parere, inspiegabilmente hanno deciso di dire addio alla nazionale. Io ho sempre ammirato dal profondo del cuore David Beckham, il tanto spernacchiato David Beckham, icona di stile, sex symbol eccetera, perché era uno che a giocare con la nazionale sarebbe andato anche a nuoto attraversando l'oceano con gli squali in mezzo. A me piacciono i giocatori così. Io credo che Totti non direbbe mai di no ad una convocazione, se mai ci fosse, ad una chiamata di Conte, non metterebbe giù il telefono se Conte chiamasse, mettiamola così. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Sì, dica. Allora, io invece non voglio parlare di Totti, sono un tifoso del Napoli, e mi piacerebbe parlare, in realtà fare una riflessione con voi, sulle altre squadre, quindi sull'Eister, sull'Atletico Madrid che rischia di vincere la Champions e sul Napoli, perché no, su Liverpool, cioè quelle che non fanno parte della cosiddetta elite, di quei tifosi come me, come tantissimi in Europa direi, che amano profondamente la loro squadra anche se non vincono mai, che sperano ovviamente di vincere, ma anche se non vincono mai le amano ancora di più. Ed è bellissimo essere tifoso del Napoli, così come in questo momento sarà bellissimo essere tifoso dell'Leicester, dell'Atletico di Madrid, e è triste a volte immaginare e pensare che ci sia una sorta di pensiero unico dominante che va in un'unica direzione, che ci vuole tutti i tifosi o di Juventus, Milan e Inter, anche qui al sud. È molto, molto triste a volte immaginare questo, invece no, è bello essere tifoso delle proprie squadre e delle proprie radici. Aggiungo solo una cosa, molti qui a Napoli criticano De Laurentiis per i soldi, io invece dico che la critica da fare è un'altra, il simbolo Napoli, il modello Napoli come rappresentante di una terra, di un popolo va portato di più all'estero, va portato di più in un contesto internazionale. Sì, sono d'accordo. Grazie e forza Napoli. Grazie a lei Francesco, tutto quanto lei dice è estremamente condivisibile. Io continuo a ripetere che il Napoli ormai va considerato come una grande squadra europea ed è per questo che dico che insomma Higuaín, prima di cambiare maglia, dovrebbe fare i conti con questa dimensione e con questa realtà. Poi, quanto agli altri due esempi che ha fatto, quello dell'Leicester è qualcosa di inedito e totalmente irripetibile. Io ne sono convinto. Quanto all'Atletico Madrid, invece, il fenomeno è diverso perché Atletico Madrid ha creato una sorta di anima, di spirito, di unicum, che il miracolo è questo, è riuscito a portare avanti per diverse stagioni, e questa probabilmente è la via che deve seguire il Napoli. Pier Augusto Stagi, buongiorno, torniamo a Giro d'Italia, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Il fatto del giorno, ritiro di Landa, perché? Perché questa mattina già aveva detto immediatamente di aver dormito molto male e di aver avuto dei problemi gastrointestinali. Un virus l'ha messo KO, ha provato a partire per vedere se il fisico reagiva, ma in realtà il primo Gran Premio della montagna, oggi ricordiamo, è una tappa molto lunga, 220 km con 4 Gran Premi della montagna, e al primo GPM si è lasciato andare, non riusciva a tenere il ritmo del gruppo Maglia Rosa, è andato subito a 3 minuti e mezzo, poi 4, poi 7, e al chilometro 66 di corsa, peso di bicicletta, e come si suol dire, ha tolto il numero dalla schiena e quindi se ne torna a casa uno dei grandissimi protagonisti forse, che era andato anche bene nella crono della temutissima crono di domenica. No, non bene, molto bene. Appunto. Perché dopo la crono del Chianti, secondo me Michele Landa era a tutti gli effetti il favorito numero uno. Arrivo a dirti anche più di Vincenzo Nibali, perché è andato troppo forte a cronometro, e quindi uno scalatore puro come Landa, che è molto più scalatore di Vincenzo, che invece è un atleta completo, che va molto forte su tutti i terreni, e sarebbe stata una sfida molto molto difficile. Senti, in 10 secondi fammi il ranking dei tre favoriti attuali, tolto Landa a questo punto: Mento Nibali, Alejandro Valverde e Esteban Chavez, piccolo scalatore colombiano. Quindi nell'ordine: Valverde, Nibali, Chavez. Sì. Ne ripariamo per domani. Per scaramanzia, non dico Brambilla. Per pura scaramanzia. Intanto Brambilla pedale in maglia rosa. Grazie per Augusto Stagi, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Binde in redazione. A domani, ciao. Buon pomeriggio a tutti.